ok, dai. Facciamo una prova qua, aspetta, apri due, mi ascolti? Sì, sì, ti ascolto con un Santiago 7 e una radio 5, chi sei, Fabrizio? No, negativo, aspetta, faccio un passaggio, un baracchino, aspetta. A Simone? Anzi. Buonasera a tutti, sera a tutti. Doppio rum. Circuito 7, a salutoni, è ben sentito, Mi è stato battagliato qui. Che Ottavio vuole partire a Sassari, a tua come Fabio Panini, che si è innamorato di una ragazza che lavora dove Fabio Panini, a Meccoma, non so, dovrebbe rompere in età. E... a farmela vedere, ma io non ho niente in Puglia già. E invece la ragazza che come si chiama? Non lo so, la pista lì si è imbattito di questo, lo sai come è fatto? Cappa. Vabbè. Perché non ho voglia, e ho detto, fammi passare, ho detto, la Pasqua tra quelle volte mi hanno fatto quella storia di Pablo, poi direi ho detto gli intenzioni su e la tipa già l'ho visto con un tipo, tanto quello non ha sorbiglia. Davvero? Mi correvi incazzatoli, adesso con questo sto facendo di andare se senza rompermi e con la testa devo stare presso a te. Già mi ero salvato la mattina, impegnato in altre cose, ci vuole solo lui. Stavo dicendo già io, gira gira faccio cambio, Gennaro mi vuole dare un baracchino bruciato, io le do in cambio, il baracchino alla 78 con 400 canali. Ma te ne fai il baracchino bruciato? Ehi, capito, sono bene subito, già, carne e fiume spesso. Va. Vabbè. E il Gennaro è particolare. Ma lo sai che ringrazio che mi ha fatto ieri sera? No, c'è un 507, quello si potrebbe anche prendere, diciamo, per mettere a posto, ma a me non mi interessa. Però che io devo dare un baracchino che c'ha a 200 canali sotto, 200 sopra, perfetto, per già, hai capito, le spese di baracchini mi sa che sono finite. Cioè, posso portare qualche altra catapina, un microfono, una cosa, però con l'apparecchio proprio fatto mi avvastano. Io ho la caviola, se la vuoi. Oh, mia poltrona, mia beatone, sto facendo uno scambio, sto dando dalla 78 Tusco 400 canali in cambio di un baracchino bruciato. E io sono una caviola in campagna, capito, con la gomma sgonfia, se la vuoi, una bomba la c'è, in cambio di una cassa di birra. La carriola invece mi si la dà mi fare il culo, quanto me. Dai, cazzicco. Gliela ho contattato una carriola, mi serve a portarmi la legna che è un po' distante dalla macchina, lo sto tagliando. Ok, pelle nera, riprendi già. Poi ce l'hanno qua, facciamo le prove. Ma perfetto, no, c'era mio padre Luca che stava provando a quanto ho sentito. Luca, avanti, per prego. E infatti tu sembra fare, pensavo che la Fabrizio prima, adesso pure avevo sentito la voce di Luca, ma chi lo ha cambiato? No, lo so, penso che se si sceglie qualcun altro apparato. Ok. Questa già mi ha messo un reato pari che i capelli corti questa ragazza. Ma si può sapere come sei di... No, corsi, già recitavi. Come sono questi tipi di radicali? Buone, sono buone. Ma pare che le tasse hanno un carico sua. Bravo, ma lo so, pare, stai rompendo le scatole. Ok, io ci sono passato questa roba, mi sembra che ho preso un caffè già una volta. Ma che domande lì a città mercato? Lì, qualcosa prima delle scale mobili. Io lì non ci conosco nessuno, non le conosco, non ci battico. Non lo so, io l'altra volta ho preso un caffè proprio perché ci siamo incontrati con gente, non ho potuto fare a me, non è che non ho fatto come sta lui al banco a mangiare patatine, a mangiare queste cose, poi non lo so quanto si c'era stata a casa del maggiore, sotto il mercato a Marico, e così, non lo so. E lui è qui e adesso è con i suoi tuffi che le devo dare il latte. Cappagà, poi accompagnalo, fallo contento, dai, magari ce la rimurchia. E non devo fare rimurchia, così, e poi sono le... Michele, è capito. Una cosa che vai e prendi, no? Gianni, mi senti? E niente, io questo non è stato, tra l'altro fa un caffè, io ho preso lì, non so altro come passare lì, io ho mangiato sopra per due giorni, hai capito? E non ho voglia di buttarti nulla fino all'ora di cena. E mi sembra che ho sentito a Luca, Luca, ci sei? E mi sentite? Pronto, mi sentite? Ehi, a qualche così? Santiago 9, la radio è perfetta, e lo so, c'è il W2 e c'è anche Pomposo. Adesso ti passo a loro, avanti. Vabbè Gianni. Aspetta un attimino, già, sto provando una parete, mi senti? Ehi, ti sento Luca, c'hai un tantino di eco e... No, no, no, no. No, ce n'è troppo adesso, adesso fa sempre alto. Cosa? Già? Sempre troppo ce n'è di eco. Vabbè, sto provando 1,3 metri. Adesso? Abbassa ancora. 1, 2, 3, prova ancora adesso. Adesso? Va bene. Va meglio, sì. Vai. Aspetta un attimo, allora. C'è il bip adesso. Gianni. Non c'è il bip adesso, Luca. Ah no. Questo è 1,3 metri, buon punto. Guarda adesso. Prova, va. Sta scendo bene. Lo conosci tu, il Galaxy Uranus? Parlando la dottore se ti ha risposto cosa Silvestre, la buona anima, buonasera Silvestre. Piccolo conoscete voi un galaxy Uranus? Poi Silvestre ti sei rimesso il sesto. Cosa ti ha fatto? Non ci ho fatto casa, lo sai. Oh Gianni. Sì, ma dico, come antenna, uguale. Silvestre come come aggancia, diciamo. E che antenna è questa? Signori. Oh Gianni. Ehi. Aspetta la mia, scusa. Va. No, passaggio. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto è il segnale? Tu? E io, ora buono. Sto mandando un monachino e un microfono. Sì, 9,25, sì. 9,25. E lì, a Porto Torres. Santiago 7, Nacchi, Guardino. Santiago 7. Forte di radio, Santiago 8 e mezzo, quasi 9. Va bene, te e me sono allo stesso punto, Silvia. Quindi l'hai vinta. Hai vinto la battaglia. Ti poteva dettare una mantova, Giampa. Se vincevi la battaglia, poteva una mantova direttamente con ti facevi una base di cemento. Per pensare a tu che cosa hai messo? Quindi conosco tutti, quello non l'ho mai sentito, a parte il Jumbo, a vista lo state per dire, il modello che mi hai detto tu, deve essere roba nuova. No, aspetta, io ho questa è l'amplificazione, questo è modificato il microfono, senti, aspetta, si sente. Questo è l'M300. Io ho capito, l'M300. E si può modificare, c'è il trimmerino, basta regolare il trimmerino e ti fa lavorare l'eco ancora più lento. Mi mettici un trimmer a 220k nell'eco, poi nell'amplificazione ci vuole uno a 100. E c'è pompa molto di più con il microfono. Io l'ho sempre fatti così con l'M300. Qua c'è il 503 è 503 nell'elenco. Non è che non l'hanno modificato bene però, perché non è il 503 quel monte, ma quello che c'è un stavo cercando anche l'auto, ma c'è il telefonino spento. Aspetta, finito. Così è stato reverbero, in pratica lo 2 da 1, anzi alla seconda pacchetta va bene. Perché non dà un bel film questi microfoni, c'è il microfono apparecchio. Ma com'è la radio? Normale, così va bene. Sì che va bene, è perfetto. Vabbè, dai. Andiamo. Luca, quello che apparecchio è? Galaxy. Aspetta. Galaxy. Oh, mi senti? Sì. Uranus. Uranius. No, qua c'è scritto Uranus, non Uranius. Uranus. No, so. Io non ne conoscevo Uranius, però non mi ricordo se era della Galaxy, se era Galaxy, si chiama Uranius, non me lo ricordo, vabbè, ma come è stata la base? Sarà simile a Samurai. Olu, come è stata la base o di quelli parmati? C'era anche K2, avanti, K2, ci sei. È andata a McDonald's. Ah, è tentata a chiedere la mano, la mano la parte e poi il coso di suocero di tirare la scarpa. Stasera ci vorrei avvisare. Io sto pensando una cosa, ma no, non vorrei dire nulla, ma mi sembra che come stavo descrivendo, mi pare che la dottorina di Claudio. E so che lavora lì, però non so come abbia i capelli adesso. Guarda, è quella. Cuzzuglia. Mi stavi dicendo già? Ah, ti stavo dicendo che praticamente io ne conoscevo uno che si chiama Uranius di Apparizio, però non mi ricordo se era Texas, capito? O se era della Galaxy o che cosa era. Comunque, quello lì che cos'è? La base? Ma guarda qua, c'è scritto nella scatola, Uranus, non ce n'è, da io non c'è, Uranus. Ma base? No, un veicolare, digitale. Ah, tipo, cosa ti posso dire, un Galaxy normale, dai, un brutto così. È della Intec già. È quello che c'è la tua fratello? No, questo è digitale. Già si sente bene, è chiara la voce. Non ricordi la buona anima di Braccio di Ferro di Pietro? Braccio di Ferro mi ricordo, non mi attivo, ma lui lo conoscevo. E nome, ma ti ricordi Pietro Braccio di Ferro? Di Sorso. Io già me lo ricordo. Sì, come nome attivo, sì. È il suo, ora. Ma è morto per... Che giovani? 97. Sente bene. È una bella modulazione. Ti sente bene? Cappa. Vabbè, da un me che non... Cioè, da un me fermo, capito? Sto cercando di farlo andare, ma... Si sposta ogni tanto di frequenza. L'apparato? E lasciamo scaldare, magari sono anche condensatori che si sono scaricati. Infatti, dove ce l'hanno fratello. Guarda che quegli apparecchi quando col frequenzimetro, quando ci disegna per dire 27.015, poi dopo che è un po' acceso incomincia a oscillare, fa 27.014, 27.016, capito? Come il samurai in pratica, che c'ha la Galaxy tutto per fare la stessa cosa, anche il Saturn Echo qualche volta. È una cosa normale, ma l'importante che non si sposti di 3 o di 4, che sia che se si uscivi sempre su qualcosa di sì, va bene. 75, 76, 75, 76, ma sta facendo anche adesso. Sì. E vabbè, non può, magari qualche componente in perdita era qualche problema, dai. Da farlo scaldare e da rivedere un po' cosa c'è da cambiare. Comunque tu da quello stai parlando sei sempre tranquillo, sei sempre chiaro. Sì, ma qua ogni tanto ricezione cambia. Senti tu male così? No, praticamente sparisce il QRM, proprio 000, quasi muto, e poi riprende. Ha sofferto un po', bisognerebbe farlo scaldare. Kappa. C'è la KP2. Scommetto che anche lui sta andando a rimorchiarsi qualcuno. Non c'è più, dove sei andato a accompagnare il figlio? Bene, dopo scendi Gianni. Gianni. Eia. Stavo chiedendo se sto scendo bene. Muore. Perché? Così, stavo provando. Dato che ogni tanto gli ha attaccato l'antenna grande, ma che deve fare il capo e quindi la volta mi dimentico quale è lanciata l'antenna. Kappa. No, stai scendo molto bene. Meglio di prima, hai scivo forte. Sento, sono mai scendere da via, Riungi, c'è mai strada. Sotto la l'antenna c'è la direttiva, speriamo che parlo ottenga. Vabbè, ci sono tanti lati, quindi non penso che si abbia quella sfortuna di piegarsi tutto. E cazzarola. Non saranno sistemati bene, come l'hai attaccato questo radio da spugna? No, io sono attaccato bene, ma la pezzetta non è che sia così tanto larga, capito, da tenere il radiale 95, il discorso è quello. Io vedo gli altri, sono molto più lunghi e sono pieni, alluminio pieno, mettono lungo, metto dentro, capito? Quindi è un po' pesa, ma se non dovrebbe mollare. Cioè, all'interno delle cose diventano insieme a 15 centimetri. Sì, allora io vabbè. Ma tu ti sei comprato, Fabiano, ce l'avevi? No, sono andato in un palazzo, ho fatto un impianto di antenna digitale terrestre completo e soprattutto mi sono trovato il palo con una rampa tutta intera. Ho preso lo svuotato e mi hai saputo tutto quanto i radiali, tutti i intieri a casa, tutti e cinque. Che la stavo usando quello? No, sono via Oriani. L'ultimo parte di Oriani proprio di fronte al coso, c'è la presente dove c'era quello che vende dischi. Sì. Ho capito. Pisu, come si chiama? Zero Pisu. Dove c'era di fronte a Zero, lo più lì. C'era una pesa sopra, un palo completo c'era, in realtà il palo non l'ho portato via, era bello quel palo, perché era un pollice, un quarto, e costava come un pollice, ma pesava, era bello grosso, era. Una per terra c'era la base della pesa con tutti i radiali completi. Questo l'ho messo per la mia casa, e li ho utilizzati, ho utilizzato tre, li ho utilizzati altri due. Un Gennaro c'è lì. Avanti c'è l'Ariello. Claro, e c'è la ruota con altri amici di Sassari, c'è l'amico Fantonio, Gianello Piurunce, con Luca e altri amici qui. Ma stasera vai a trovare a Gennaro o Cattilua? Ma come sei le bisogna? Conti a Gennaro già. Lo so, come vedete, Gennaro, avanti. Sono Gianni. Ehi. Ma mi senti? Capo. Vedi, ogni tanto ho qua quel problema del... come si chiama? Del... che l'audio sparisce. Cioè, no, sparisce. Per esempio, vorrebbe a 1, poi va a finire 0-0. Se non passo contatto, controllatelo, Luca. Sopra dove c'è l'ho tappato e col dito te l'ha così subito, ci ho fatto il contatto, c'è. Ma vabbè, no, devo aprire niente, già da un po' di anni non si usa questo apparecchio, capito? Ma io vabbè, lo lasciano così, dovete anche. Va bene, ripigliatela Gianni, fa girare per Gennaro, Capilume, ci dovrebbe essere anche il Silvestro di Pontone. E avanti Silvestro, vai, c'è Gennaro da Buono, da Capridue, da Muro, Salvato. Dov'è? Io non sento più. Riprendi Gennaro. Dov'è? Gennaro, mi senti? La voce da cambiare il cambio di baracchino? Non mi sente, ma tu? Io non mi senti abbastanza, non sente. Capra 2, questi si hanno cambiato il canale con Capri. Giù di ex. Capri 2, ci si. Già, sono qui già. Con Gennaro stavo parlando. Stavo parlando con Gennaro, mi vuole dare un baracchino da 78, con 400 canali, con bande e più linea del 507. Quanti sono a te 507? Piare, non lo so per la presa G. Sembra un affare già. Non lo so. Beh, e tu? Ma non avevo un consiglio di lavoro parecchio, ma come per sé ne bisogna. No, io gli ho proposto un altro che barotta non è proprio, la compro solo nuovo. No, ma il palacchino funziona alla grande, ha detto. Il palacchino già funziona alla grande. Ho 400 canali in più, c'ho aggiungi anche il lineare, ha detto. Il lineare cosa c'è? Anche i finali sono. Va a comprare il finale lineare, che è come se lo comprassi un tubo. Allora già va bene. Ma lineare trovi che a posto tu. Ecco. Lineare, basta cambiare il finale, cosa funziona? Cappa, avanti, break. Ciao, già. Ciao, Capri 2, non so se mi ascolta. Ho capito che lineare è, ha detto Capri 2. 507. Ma i finali costano più del lineare? Sai che quei finali lì costano... Ma della ZG? Sì. E no, sono... costano... Mi pare quelli sui originali sui 76 euro l'uno, 79. Per rilevare le ciao Gigi. Yeah, non conviene mai aggiustarli quelli, fai prima a buttarli. Sate già che tu c'hai dei questi finali, se no comprare i finali costano più del lineare. Superano il prezzo del lineare e comprarlo nuovo. Non è quello che gli ho detto io. Io gli ho detto la stessa cosa. Positivo, no? Tu figlio 550 stesso della ZG, 550 stesso c'ha 4 finali e se li metti originali costano, poi trovi qualcosa da spendere di meno, mi pare qualcuno ha trovato anche per 48 euro l'uno, ma fanno da oggi a domani, non sono fuori, però quelli originali, io ricordo già da anni, cioè, quello diceva sempre la buona me Giancarlo, che non conveniva, dice se metti quelli che non sono di concorrenza, dice fai tempo a accenderlo, a provarlo e sei nuovamente da capo. Però quelli originali ci sono, i suoi originali, però già da io parlo nel 2008-2009 già venivano a costare il prezzo lui, l'oro era sui 78 euro, l'uno più l'espedizione, capito? E se ce ne vanno quattro, fatti un giro di conti e tu 78 euro l'uno. Fai 7 per 4, 28, 4 per 8, 32, e a te ci lo contare. Entro per esempio della ZG 300 non conviene cambiare il finale, conviene comprartelo sempre nuovo, come non mai cambiare il finale. Se trovavo quel finale bruciato, lo devi pulire, ne avevo qualcuno, ma buttato perché non serve, costa di meno nuovo, tu lo ordini nuovo, lo paghi di meno, però ce l'hai nuovo, hai capito cosa ti voglio dire, capri 2. Costano già il 300, ne ha due finali, ecco, e ti viene a costare già sui 100, quasi 180, ti viene a costare sulle 180 euro, 180, lo compri già nuovo quel prezzo. 140 su eBay, nuovo di zecca, 300 watt, 140, la tecnocomunicazione. Per quanti watt? 300. 140. Via. Ciao, la roba in offerta. Ma il B300? Sì. Il B300 non era 300 watt, no? Ma è perché dice il B300 da 300 watt in AM? Quanto è? 300 watt gli dà un B550 in AM, 300-350, quello se ne dà 200 troppo già. Ciao, OGG. Ciao Cla, io lo so di preciso quanto ne dà il B300, sia il 550 che il B300, lo so di certo, di sicuro, perché ce l'ho io il B300 quanto dà. Allora, senza forzarlo molto, entrando con pochi matti, ti dà sui 180-200. Se tu metti quello che sei tu Claudio, quel 48 lì, quello te lo faremo anche a 250, perché c'è dei picchi allucinanti, perché col 750, Claudio, quel io ce l'avevo quello lì, col 750 mi dava 520 watt, fini, con quel baracchino lì, entrato con pochi watt, E ma infatti quello che ho detto a Gianni, cioè 1300, 150 euro più trasporto, che dia 200 watt, mi usa, non mi valerà bene, il lineare lo metti o non lo metti? 40-50, capito? Allora vabbè, tu immagini che c'è un BV131 Gianni, che è modificato, capito? C'è una valvola modificata, ce lo sa Gigi perché lo conosce molto bene, è stato fatto da un amico di Gigi. Non monta una PL509, ma monta una valvola americana da 200 watt, con la 48 a 3,5 watt, da più di 200 watt, un BV131, che oggi pago 80 euro. E non so, ce l'aveva Massimiliano, già me lo ricordo. Ce l'aveva Massimiliano e pompava forte. E beh, ma la valvola quanto costa, dovendola cambiare quella? Quella valvola? E cosa costa quella valvola? Costerà 15 euro, 25 euro, cosa costa? Se si trova già va bene, già va bene, rende bene. Ma le hanno cambiate i pilini pure? Tutto è stato modificato, c'è l'ingresso anziché da 5-10 watt, c'è da 10-25 watt, capito? Ecco perché io con la 48 ho quella potenza lì. Figurati che lo strumento si apre a fondo, quando parlo va oltre 200. È micidiale quel lineare, ma è una spesa da niente, capito? Una spesa da niente. E mettiti d'accordo con Massimiliano, ma vabbè, ma non fa per... perché sta andando il B750, ma quello funziona bene a 24 volts, a 12 volts da, sì, 260-270 watt, da, non di più, l'ho provato io con la 48. Sì, è arrivata. Non va bene, non va bene. Sentite che ha detto Giampaolo? Che? Che ha detto Giampaolo Silvestri? No, non l'ho sentito ancora, me l'hanno detto ma non l'ho sentito. Come esce bene? Tappa, sì. Penso che l'abbiamo aspettato stamattina l'antenna, perché ho visto che c'era a casa sua a Coso, a Gianluca. Ho capito, speriamo che va tutto bene, la radio già... c'è la conosco, c'è tutta la linea completa, l'ho dato io, quindi non ci sono dubbi che esca bene, però ancora non l'ho sentito. E chi c'è? Dimmi Gennaro cosa c'è, non gridare perché c'è un mal di testa, dimmi. Se lo conosci poi si sente un rumore. Quanto arriva forte. Ho capito che hai incontrato un ragazzo Icon 40, cioè questo ragazzo si chiama Icon 40 e glielo vuoi dare, cosa le vuoi dare? Cosa le devi dare? Neanche io ti ho copiato, Gennà. Neanche io ti ho copiato, non ho capito assolutamente niente. Tu capito Gianni? No, c'è propagazione, io a volte lo capisco bene, a volte si fa una propagazione sopra di lui, non si compra di lui. Ma io non lo ricevo così forte come lo ricevete voi e io deve essere, c'ho qualcosa davanti, lo ricevo ma non benissimo. Comunque tu stavi dormendo. Io sto guardando me, sto guardando lo sport, mi stavo ascoltando. Capisco perché c'è propagazione, arriva fortissimo, non lo capisco perché non ho capito quello che ha detto. Luigi, tu hai capito cosa ha detto Gennaro? E lui, se conosci questo tipo di cosa, gliel'ha dato. visto questo ragazzo, non ho capito bene che poi parla, cioè qualcuno fa cucci, deve essere propagazione e non si è capito niente. No, il discorso, sai cos'è la clavieri prima del lineare? Che il finale non conviene, perché stavo parlando altri due poco fa, che non conviene un lineare con il finale, perché i finali costano più di comprarlo nuovo, il paragone era quello che costava, hai capito? Quello era il paragone che stavamo facendo prima. Cioè, certo, quanto si può pagare secondo me? 100 euro. 100 euro, stavo detto già. No, c'è nessuno che lo sta prendendo. Io ho lavorato, cioè me lo dicevi, te l'avrei dato tranquillamente, aspetta rispondo al 3. No, 550 qua, il 300 ce l'ho davanti a me. Ma prendendo? Il 300 non lo so, il 550 è sempre in vendita, te l'ho detto, è qua, nuovo, nuovo. Non è mio, è sempre di un amico mio. E quello 150 io? Vivo. Grande lui. Insomma, è grande, no, non è piccolo, è grande però, io non ho neanche provato in vettura, dico la verità, io l'ho sentito in camion, e spinge abbastanza bene, in vettura non mi sono fidato per la batteria, comunque io ho il 300 quando l'attacco, a volte l'attacco col baracchino normale, e già l'hai sentito quel 300 che c'ho io, e te l'ho tolto, stavo guardando una cosa, stavo guardando... Ma come l'hai fatto l'attacco dello spinotto a distanza, hai capito l'attacco perché lo puoi accendere, cioè, come metti nel baracchino dietro per la cassa, c'era cioè quell'attacco lì lui davanti, tu gli metti lo spinotto e ti metti l'interruttorino a distanza che lo puoi accendere e spegnere, capito? E niente, stavo vedendo per siccome le 750 mi stavano rispettando e stavo guardando qua per preparare un attacco per le 750 che ho in camion, tutto qua. Capito, poi c'è il coso preascolto che ti aumenta la ricezione, c'è quello lì, io non lo inserisco mai perché se no mi fa troppo casino, c'è anche quello, c'è il 300, però mi pare c'è anche il 550 questa funzione così, anche il 550 c'è. Amplificato l'antenna? Sì. Appagato. Vabbè. Va bene, già va bene. Io ero indeciso sempre, però questi della ZG fanno sempre visto con la radio. Non è vero niente, non è vero nulla Gianni, si è abbinato bene, no, io ho ZG in camion, ce l'ho in vettura, se invece è tutto abbinato bene, se no non va bene. Se tu l'abbini per scrivere metti un 48 a questo del 300, è una bomba, perché io non devi andare in... non mai metterlo in sesta marcia, in quinta... Ecco, in quinta c'hai 160-170 watt e va bene. È inutile che tu lo forzi a farlo arrivare di più, in sesta tanto mai non va bene. E poi e c'è scritto anche dietro, è sconsigliabile adoperarlo in sesta marcia. Proprio la sesta marcia non devi mai adoperare, massimo in quinta. E in quinta c'hai sui 160-170 watt e va benissimo. Entrandogli con pochi watt però, eh. Ho capito. E invece in sesta marcia, distorce così. Scusate che mi hanno telefonato, sto andando a fare un affare, là. Ma un affare veramente interessante, poi te lo dico Gianni, che mi vesto immediatamente, perché stavamo parlando di cose di radio e mi hanno chiamato, c'è un affare, sto andando immediatamente. Ci sentiamo dopo, poi vi dico che cos'è. Fammi sapere. Guarda se ci sarà anche lineari che lì. So che c'è un bel baracchino, e tutta la frazione completa del povero braccio di ferro di Sorso, è micidiale. Ah sì, Luca, sì, stavo uscendo lui con uno dei suoi apparati, lui ci bombe bene. E c'è il fratello che mi sta aspettando, là, che è tutta roba del fratello, ci sentiamo dopo, torno a casa di Luca, ciao. Ciao, ti stavo cercando poco fa, infatti. E c'è il telefono in casa attaccato, io lo stacco sempre dopo pranzo, se non mi fracassano le balle. Va bene, vai, fammi sapere. Senti, chi è rimasto? Capri 2, avanti. E ti ero ascolto pensando all'affare, Gennaro, mi ha proposto cosa fare, baracchino più, però Gigi mi ha detto che i finali costano un casino, quindi non lo so già. Troppo guerreme, beh no. Ma lo fa Gigi? Non so, ma non mi senti tu a me o da Pedue, sto facendo con poche vatte. Non ti sento Luigi, ma aumenta qualcosa. Denaro. E lui che non ascolta a noi, capito? Capri due. Attento Gennaro, mi senti Gennaro? Gennaro, si ascolti in Vulcano la piccola stazione qua, Gennaro. Non sono il cugino, io sono un amicaccio, non sono il cugino. Se tu parli io ti sento, Luca. Ciao Lucarie, bene, bene ascoltato, buona Maria di te. Mi anche a te, saluto. Luca, ti sto arrivando, hai visto quel tempo? Sono qua, sono qua. Sto parlando. Piccolo, ma con lei, e c'è lei, Giovanni? Sì. No, sono Claudio Giovanni, aspetta, arriva. Gianni, comunque se ti interessa c'è quello là della 550 lì di Pinocchio, e ancora qua non se l'ha portato via. Alimentazione, capito, che cosa c'è? Facciamo per servo. Vabbè, guardo se c'è. Aspetta, se lo guardo nel dispiace, così ti dico della ZG che ce l'ho davanti, aspetta un attimino. Oh, qua mi dice 35 ampere. 35, 10 o 50. E qua dice, allora, al 15 cos'è? 15% cosa cavolo? Comunque 35 ampere. 35, allora, 35 ampere. 35. E 300 perché? 320 ampere addirittura. Il B300. Quanto ci vuole di ampere per il B300? Chi mi dice qua, 20 ampere? 25,50. Non ho capito, ciao. Ah, ma lui, Gianni, lei sta pigliando il 5,50 l'ampere sagittario, va lì al 5 e se lo prende. Quanto lo sarà? 100 euro, so. E va bisogna avere come va? Allora va bene, nuovo nuovo. Poi se non ti piace quello c'è il volero, non so, metti d'accordo con lui, già lo sai, non per il circo. C'è stato, ci vai di mettere con Giuseppe stasera, glielo chiedi, già ce l'ha lì vicino al circo, ce l'ha quella roba. Anche l'altra roba, c'ha 12 anni, l'ha diventato in PS 10-12, era Inter. Già, quello apparecchio te lo sto facendo fare a te, mira, Gennaro. No, non mi serve a me, io ne ho troppo. E tu gli dai il cambio? Eh sì. Non un pezzo della roba mia, riposso là. Sì, già va, già va. Quanto lo sta dando? No, lo sta scambiando già. No, a Gigi sto dicendo, quanto lo sta dando quello là? Il velocetto? Il velocetto è 150, ma questo è nuovo, voglio dire, è nuovo, gliel'ho fatto prendere io, è nuovo, nuovo, non l'ho mai neanche adoperato lui, capito? Bisogna vedere, non lo so, è nuovo quello che ti dice Pomponio, questo è nuovo, capito? È nuovo, è l'ultimo, ed è l'ultimo, perché i modelli prima erano fatti un po' diversi, invece questo è tutto diverso, c'era anche Massimiliano uno, però non va bene. Questo è diverso, il modello nuovo proprio del è come è identico a questo che c'è qua nell'ultimo, la ZG c'è qua, nel corso di triare la detatrice gemello preciso. Ed è questo, ed è degli ultimi dati. Vediamo, ci penso. Però è troppo grosso, quello scalda un po'. Ma c'era Albino Radio Falcano, ci vuole almeno una batteria da 75 ampere in macchina. E quando lo stai operando, ma io sto parlando che lui lo mette anche in quinta marcia, mi. Capito? Se tu poi lo metti in massa, più bene, allora va bene. Però per adoperarlo Albino c'era nell'appunto e c'ha la batteria da 75 ampere, capito? E con 75 ampere la macchina è molto viaggiando in moto funziona attaccato bene, capito? Però sconsigliate a macchina spenta perché fai due giri e ti scarica e ti butta giù la batteria. Quello è normale, ha molto assorbimento. Chiaramonti. Ma perché c'è Gianni Chiaramonti a Cina? Comunque non lo so, già. Tu non so io che batteria c'hai, ma tu ti sei per casa o per macchina? Per casa. È meglio un altro diverso, già, perché secondo me un altro tipo quello che si è preso coso e quello è bello, ma anche quello che ti stava dicendo, quello valvolare è bello, anche quello va bene a casa, va bene perché Roberto me l'ha detto che forse come radio, dice, come radio è più bello quello valvolare e dà meno, diciamo, fastidio alle televisioni, cose varie, quello valvolare, mi stava dicendo Roberto, di quello a transisto, hai capito? Dice quello là è molto migliore, quello a valvole di quello a transisto, capito? Da meno spurie, com'è che si dice, dai, meno disturbi. Meno spurie, sì. La macchina va bene, quello vecchio va benissimo. Va bene, va bene. Se no, non so che dirti. Non so, io potresti cercare un altro quella 220 per caso, comunque non lo so, se ti interessa, se tu mi hai detto che c'hai da 30 ampere ce l'hai l'alimentatore. 50. O lo porti a una meraviglia. E poi non è detto che lo devi sempre portare al massimo di potenza, no? Lo puoi mettere anche a 100 watt, a 80, adesso il minimo non lo so. Stavo quasi per provarlo in macchina, non l'ho attaccato, ma stavo quasi per provarlo. Questo è quello che avevamo modificato, vero? Quello che c'era Pinocchio. Pinocchio c'era un altro modificato, non quello lì, no. Lui c'è quello che funziona a 220 modificato, Pinocchio. C'ha quello... E poi quell'altro che avevo fatto io, l'avevo fatto Roberto, sempre il 500, cos'era? Che della ZG sempre che ha 24, però funziona a 220, quello da 400 watt. ISO, quello dovrebbe darne sui 250, 300, invece ne dà di 400 pieni pieni, ne dà quello lì. Quello ce l'ha, ce l'ha butto, mi pare, se non sbaglio. Fa gaffa. Chiedi da Pinocchio se non lascia qualcosa in me. Non lo so, quando lo senti glielo chiedi, cose, capito? Io infatti gli ho detto non voglio averne niente, che cosa, lui mi ha detto 150, io no, siccome non è roba mia, ho detto mettiti la cosa, tu è da che lo chiede, che tu che manda, io lo mi ha detto. Va bene, se poi interessa qualcuno non è che ti deve mettere d'accordo con me, ti deve mettere d'accordo con lui, capito? No, no, capito? Provati che lui ti dica sì, ti faccia quello. Luca non gliel'ha fatto, Luca di Forno Torres non gliel'ha lasciato. No, sai cos'è? Pinocchio è fatto in quel modo, gli dice così e non te ne toglie manco, se ti dice le 5 euro, quelle 5 euro ci deve essere, non te ne toglie manco per l'anticamera, è fatto così. Vabbè. No, perché io avevo sentito che a te te lo lasciano qualcosa in meno. Ma a me non mi serve, hai capito? A me non mi serve, capito? E poi a me non me lo trova e mi rompe le palle, capito? A me non mi serve quello lì, io ne ho altri lineari. Vabbè. Andare. Io lo voglio vedere comunque. Non so, io se vuoi io te lo posso anche dare il numero di più, un certo di locale, si dice lascia, te lo do 120, 130, non so se lascia qualcosa in meno, non lo so, capito? Io ripeto, da quando me l'ha dato è sempre dentro il mobile lì, capito? Non l'ho provato e vuole volendo lo potrei anche provare, spero che ora sono. No, non lo provo, no. Potevo andare non a casa, ma a provarlo in macchina, a attaccarlo. Tanto c'ho gli spinuti del 300 che ce l'ho qua, l'ho tolto per vedere, potevo anche provare. Provalo, così ti scettiamo. E lasciamo, sai quando lo faccio? Lo faccio di Pasquetta, se è corto Pasquetta che è tutto chiuso l'attacco, lo provo già, lo provo io di Pasquetta. Capo, che vuoi dire anche come ci risale? Bisogna mettere in moto la macchina, se non sta giù la batteria ci conta le macchine, perché se non c'è batteria va in saturazione, lui non ce la farà corrente ma esce male lui. Di propagazione del genere lì sì sì che è rimasto capri 2 una vecchia di pista da squadra di tanti anni fa. Ok, e niente, quindi non scambi niente già allora. Non rimane tutto qua, quello che c'è so che è buono, non scambio nulla. Innamorato di te. Ho dei Giuseppe che devi vedere, non so cosa mi fai dare. Vuole che vada a trovarlo qui a Roma 38 come ti ha detto. A riposo sei già. E la sera non lavoro più io in questo periodo perché sto recuperando delle ore. E fin quando le finisco non ritorno la sera. Ok, no, io il mio già è nuovo, c'ha 400 canali, quello che metto in macchina, piccolino piccolino, fatto, e dopo se viene il mio amico, la cosiddetta, dopo è l'apparecchio che ti ho regalato. Io ne vorrei cambiare una solo di stazione, la 48 Plus. Col microfono MB5 ed dare anche lo shure, intanto non c'ho posto per metterlo, va benissimo ma non c'ho posto. No, avanti. Mi vuole dare un macchino con 400 canali. Un attimino, avanti, prego. Ciao Gianni, sono con la costa in trasporto a Sassari. Qui Conan, ben sentito, ben arrivato a Sassari. Fare compere. Paroggia, sì. Sono venuti parenti a trovarci, quindi siamo saliti un attimino a fare un giro. Adesso siamo in parcheggio, che c'ho il giovanotto che sta facendo merenda. Paga, ma quanto tempo c'hai? 5 mesi. Caspita, sta diventando grande. Passa il tempo, veloce. Sembra ieri che è nato. Meglio così. Già vende l'idea, già di buona forchetta si dice. Meglio così, il nostro invece mangiava pochissimo, da piccolo ci faceva preoccupare, siamo andati anche dalla pediatra a farci dare un ricostituente e ci ha detto guardate, io ve lo ricordate di una cosa, che poi tornerete qui per dirmi di darvi una dieta perché mangia troppo, e così è stato. No, questo qua dica di buona forchetta, anche se non conosce la forchetta, ma appena visto il cucchiaino la prima volta ha detto quello è mio. Mi chiamavano il pappone della clinica, così mi diceva mia madre, perché mi hanno dato la camomilla del cucchiaino, dice che la succhiavo, addirittura appena piccolino appena nato. E mi chiamavano il pappone della clinica. La faccia, sei paffutello? Io no, sono magrolino. Ah, quindi hai perso tutto crescendo? Ma va, sono grosso, sono bello piazzato. Ah, va, non sei solo per affrontare la clinica. Campagabba. Sì, mi piace mangiare, per me è proprio un'arte mangiare. Non sono di quelli che dicono mangio per campare, no. Quello è la malattia di tutti, dover fare la spesa perché bisogna mangiare, però almeno mangiare buono si dice, non mangiare bene, mangiare buono. Certo. certamente che sì. Devo sentire i sapori della roba, non mi piace mangiare tanto per mangiare, no. Per me è proprio, diciamo, un rito mangiare. No, già sono d'accordo con te. Però è vero anche questo, che durante la settimana un minimo di dieta va a seguire, dai, poi fine settimana ci si sbraga un po' di più. E ci si rifà di tutta la settimana, così. Bravo. Durante la settimana perdi 2 kg, a fine settimana ne prendi 3, poi ne perdi 2, poi ne prendi 3, poi sempre in non in difetto, in credito. Kappa, dai, io mi sono trattenuto troppo, ti presento, qui c'è, sono in compagnia di Gigi Vulcano, dell'amico Gennaro da Morra, e poi c'è anche Capri2, Luca, eccetera, eccetera. Luca non so se sia l'ascolto. Vabbè, comunque, va per chi vuoi, salutare. Kappa Roger, dai. Allora, già c'è un po' di gente, comunque, ruota. Avanti Gigi, buonasera. E a chi era? Chiedo un attimino distratto, buonasera, ma Luca, di promotore? No, Sandro Conan di Alghero, in questa greca qui a Sassari. Sandro Conan di Alghero. Sì, signore, attualmente zona Decathlon. È positivo, dai, Caparoggio, io qua sono Safra e... della mia piccola postazione, capito? Allora già arrivo da quelle parti anche in barra mobile, dai. Positivo, dai, positivo, anche se sono con baracchinetto normale, ma l'antenna sopra il tetto riceve abbastanza bene, dai. Ah, no, va bene, anch'io. Barra mobile, omologato, presidente Giorgio e Antenone. L'Antenone magari già aiuta. Adesso vediamo un attimo se c'è, ho sentito Capri2, vediamo se lui mi ascolta. Attenzione, Capri2 è da Sandro Conan, buonasera. Beh, non lo senti Capri2 a Conan? Tipo, negativo, quando sono uno buonasera con quel Conan, se mi si è ascoltato. Certo, Conan. Sono negativo. Ci ho modulato dalla barra mobile dell'alto alta. Mi dispiace, lo sento cordialmente, Gianluca, lo vuol dire che qui non arriva, come la telefono voglio un po' troppo, e proprio, cioè, è negata la posizione per Alghero perché si punti in Sassari. Eppure io lo sento bene. Appagato. Lui ti sente, Capri2. Che te la sto usando ancora? Sì, ho una manuale, 1,60 m, 1,70 m circa. La conosco la mano, ce l'ho anche con la base magnetica. Sì, io ce l'ho direttamente su base a farfalla. No, è un'antenna che mi sto portando avanti da anni, te l'avevo raccontato tempo fa, gli avevo rifatto anche la bobina perché mi avevano rubato lo stelo. Non mi sono più stretto, più corto e l'ho dovuto adattare. Ascolta, ne approfitto più il microfono, le 50 chiama e siamo pronti, il bambino è già organizzato. Scendiamo a fare un giro qua al supermercato, magari ci sentiamo dopo Gianni. Kappa, dai, buone compere allora. Buona serata, la roba di Pasqua costa meno comunque. Dove? Dimmi. Le uova di Pasqua costano meno, perché noi le abbiamo comprate per i bambini e abbiamo fatto un po' di paragoni con altri negozi e costano meno. Buona sapere, visto che siamo qua, facciamo riferimento anche a questa differenza. Bene signori, per chi mi sta ascoltando, 7351 da parte mia, sono con la questa in barra mobile, questa è Greca Sassari, QRT, ti lascio per il microfono giusto perché mi arrivi più forte e confermo di nuovo il saluto in circolare. Vai Gianni, doppio Roma, saluto da parte mia, bye bye. Ciao, ciao, buone compere, di nuovo, avanti. A me. E io. Saluta Carletto. Ciao Carletto. Ecco, canale 10. Carletto. Dov'è Carletto? Non lo sento. Carletto. Ciao. Ui. Riprendendo stiamo. Passeggiando sta Carletto. Passeggiando. Kappa. Devo essere a casa. Ma Carletto, fatelo di Luca fece. No, Carletto qua, questo. Carletto che è vicino a me qua. Ciao Carletto. Mi ha salutato, ti ha detto che un vigile è sempre all'estero. Kappa. E io ci voglio vedere quell'apparecchio. Poi c'è un'altra cosa io, a parte c'ho quella 5000, la Winsor, quella famosa, quella grande, quanto una bottiglia, quanto una bottiglia. Non l'avevi data a barra di vino. E l'ha comprata un altro amico, gli avevo fatto portare, ho sentito, l'avevo portato qua, ho sentito lì a Marrubio, e l'ultima che è rimasta l'ha presa questo amico, poi la messa nel coso, invece gli erano fatta togliere perché lui c'ha il coso, la gasiera e come si chiamano, sia per la fiamma 2000 e più il gas fa, e allora per il fatto della pensierina gli erano fatta togliere, dice no, dice questa cosa può far massa, quella sai cosa della sicurezza, quella così, e non gliela fanno mettere, capito? Ma quindi rimane senza apparato. Positivo. E allora l'ha data a me e io gli ho dato un'altra che lui può montare e togliere con la fase magnetica e via, capito? Avanti. Buonasera. Buonasera anche a Gianni, conosco chi c'è altre volte. Quello che saluto in circolare da Benito. Poi la Benito, buonasera. C'è Capri2 da Muros, c'è Bonorva, insomma ce ne sono tanti. C'era anche Conan, adesso ha chiuso per andare a fare la spesa. Insomma siamo in tanti stasera, dai. Sono contento che si sta ripopolando la frequenza. Carletto che se n'è andato, Carletto, non ho capito chi è Carletto. Quel ragazzo malato che c'è qui a Ottava e sta sempre appeso lì al negozio. No, non ce l'ho presente, non lo conosco. Vabbè, ecco, mi hai fatto parlare alla parecchia. E noi ogni tanto sentito è venuto a vedere se era il collegamento con il carabinieri o con chi era. Ah, e tu lo devo dire che sei parlato con i carabinieri. Perché sai quante volte avrai visto lì quel ragazzo malato che c'è lì a Ottava? Sei andato tu nella chiesa a vedere da poco a vedere quella diciamo quel come chiamava la storia di Gesù Cristo, hanno fatto un'operetta con la storia di Gesù Cristo, l'hai vista? No, no, non ci sono neanche le sapere, solo che non è inaugurato e sono passati, sembra con la macchina sopra come portano il Papa, in piedi dritto era sopra la macchina, una macchina tipo quella che porta il Papa scappottata sopra. No, perché c'era il cugino di mia moglie che faceva, che era uno degli attori, da. Ci sono andato, no? C'era una specie di processione, ho visto, una specie di fanda musicale che ha fatto tutta la via, no? Sulla 131. No, loro proprio nella chiesa hanno fatto, fanno le commedie, capito? Hanno fatto tipo Jesus Christ, Superstar, roba del genere, una commedia così hanno fatto. Hanno inaugurato il nuovo coso che hanno fatto, hai capito? Non lo so, hanno fatto il nuovo, come si chiama l'anno? Questo stiamo parlando di 3 settimane fa, un mese fa, giusto? Sì. E hanno fatto anche questa sfilata qua a Ottava, hai capito? Una specie di processione, capito? E poi la sera è stato fatto questo coso di lei. Però ha fatto il giro, lui l'ha portato con la banda musicale che suonava in giro per Ottava qua. Mi hanno detto che è un prete che fa da regista nelle commedie, si dà un bel da fare. Sì, positivo, si dà molto da fare per lui, capito? Si dà molto da fare, fa lavorare gli altri e i soldi se li incassa lui. Così. Sì, wow, che è quello che ha detto Giusto, si dà molto, molto da fare. Io sono venuto lì a Ottava, sono venuto la notte di Natale, la messa di Natale ci abbiamo ascoltato. E ho trovato anche a Barra Agricola. E la foresta già ci fa lui. Eia. E te l'avevo detto, ce l'ho quell'antenna lì, capito? Di Fabio Espresso, ce l'ho qua, anche quella me l'ha data e a vendercela. E ce l'ho qua. Ma quella non mi interessa, l'antenna già ce l'ho, piccolina, e va bene quella lì, piccola e sincera. Positivo, ma non sai quanto è alta questa dalla basetta, da attaccata al telaio, non sai quanto è alta. Scusa, mi piacerebbe avere il regalo e me lo puoi portare subito adesso anche. Ma che cosa devi fare? Ma quanto è mandato a riparare o cosa devi fare? Sì, è stato 24, è andato, però io l'ho aperto e dentro non c'è niente, né di bruciato, né di spaccato, non c'è niente. Bene, ma dimmi, non qua sta funzionando quello lì. Perché io l'ho aperto, ti ripeto, ho guardato tutti i componenti, le cose, non c'è nulla, neanche piste bruciate, nulla. Però quando tu fai le mette che brucia il fusibile, giusto? No, non lo brucia il fusibile, adesso non le fa niente. Ma aspetta un attimino, il fusibile non lo brucia e non accende più lui. Giusto. Che si è bruciato del tutto adesso? Bruciato del tutto adesso. Quello qui è di Napoli, non so se lo conosci, quello che adesso lavora giù alla Roma, che fa un'inizio, tu lo guardi sempre con me. Aspetta un attimino, lui l'ha attaccato a 24 e lui ha insistito sino che si è bruciato. L'odore di bruciato ce n'è dentro? Ma non ce n'è l'odore di bruciato, ha bruciato il fusibile, mi ha detto e basta. Lui l'ha rimesso il fusibile, l'ha riattaccato e l'ha buttato. Te l'ha messo di quelli che magari erano staccati. Stamattina, ma tu il fusibile l'hai controllato a posto, eh? Sì, a posto, gliel'ho cambiato. Ma la chi non accende neanche? No, no. Hai controllato se si è bruciato al momento il fusibile? Dai, così, non fa niente. Ah, ecco, sì, ti hai fatto una cosa giusta, quello bisogna sempre farlo, quello. Perché così se un danno, per esempio, è di 10 euro, diventa di 80 euro, quando tu gliela appoggi assieme. Vuol dire che il danno è già fatto, già provato lui a fare così, capito? Perché sino che brucia il fusibile, tu hai salvato tutto. Vieni di qua, 5 minuti, te lo stavi portando via a posto. Però una volta che tu lo provi senza fusibile a farlo attaccare così, non accende lo stesso, però si brucia lui. E allora è bruciato proprio. Non ha fatto nessun segno, io gli ho messo un filo tra, come si dice, tra un tappo e l'altro, un pezzettino di filo. Ma è sbagliato, perché se c'è qualcosa che non va, c'è ragione Gigi, non salta il fusibile e quindi continua ad andare la corrente e brucia tutto. È saltata la pista. È saltata la pista, capite? È saltata la pista. Hai saltato la pista, capite? Invece dell'altra maniera che cambiava solamente il diodo ed era a posto, saltata, controllava il diodo e gli cambiava il diodo e se poi non era il controllare la pista. Che apparecchino è? Un Midland, spieghiamo quello per 48. 48. 48. Che cavolo, è 48, può essere la pista, che gli è saltata. La pista. Ci sono due bombine, ci sono diverso lui, che partono dallo spinotto dell'alimentazione al campato, una di senz'altro quelle due sono crepate le bombine, magari hanno riscaldate e sono disfaldate, però con la 24 volt si è camminato ancora di più, sta tranquillo, il trasformatore sarà asciutto, sarà. Se da un colpettino non succede nulla, ma se insiste, quello sto dicendo io, se insiste a provare senza fusibile, allora sì. Così Gigi, ho fatto un filino io, tra parte e l'altra, il fusibile, perché credo che anche quel fusibile magari era interrotto all'interno dove c'era il saldatore, capito? E non accende proprio. No, non accende, se non mi sarebbe, non avrebbe bruciato quel filino che gli ho messo. E vabbè, dai, non lo so, anche da pompo lo puoi portare a vedere, se no bisogna mandarlo da come si chiama, dove li mando io. Positivo, lui mi ha detto, faglielo vedere e vedi di valutare quanto è la spesa, se no, se per 100 euro di cose, dice no, me ne prendo uno magari di quelli già modificati. già che si è tutto rovinato, il motore è bruciato molto, il modulatore, cosa, si vede che è a posto, sì, ho bruciato. No, che si brucia, si stacca, che piste, l'ho guardato tutto, non c'è niente. distorsione. Ok. Ok, ci siamo. Va bene, capito, non devi stare lì a preoccupare, non è tutta questa grande urgenza. Va bene, d'accordo, allora, non c'è problema. Capagava. Avanti, capito. Saluti, ben sentito, e capito, ti rimetti il cambio, vai Sandro. Ciao, facciamo Gianni. Buonasera. Ben ascoltato in queste coordinate, dai. A te l'antenna. Imparabile sei stato. Negativo. Negativo, stazione fissa. Ma c'è qualcosa sotto. No, diciamo che mi stavo parlando con Antonello, che mi hanno proposto un affare, mi volevano dare un 400 canali stazione spalle e un 507, un lineare da riparare, in cambio dell'apparato che c'è in macchina. Non è che ti interessa a te, no? No. Per il momento basta spendere soldi per la 27. Mi passa in avanza, ho capito. No, attualmente io sto usando, non ho niente sotto, sto usando un animale. Che sì, va benissimo, gli arrivi Santiago 7, la 5 perfetta. No, lo stavo prendendo i soldi, volevo fare con il cambio un baracchino di parramobile, tutto lì, e io ho. Capito, il mio uno adesso non me lo. Ah, ho capito. Va bene, vai. No. Da parte mia, Gianni, basta. Passa avanza, poi. Insomma, e poi a fine dei conti siamo sempre là, capito? Tutto lì. Va bene. Antonio. Antonio, qua. Antonio, fatto. 10, 9 più 10. C'è Gennaro che sta facendo chiamata a Gianni Chiaramonti. Va bene, allora già sta andando bene questo trattore, dai. A lei, già lo sai cosa sto usando? Sì, 9 più 10 con picchia 20, quindi figurati tu di che c'hai. Pensa che c'è anche Vittorio Bocca che potrebbe andare. Avanti Vittorio. Sì, buonasera, questo non ho messo il conciuto, cioè. Sai, quando muovono con un apparato, tu sei però un marpione. Buonasera a tutti comunque in generale, sta sempre. Ti riconosco subito per lei, cosa ti credi? Vabbè, cosa ti è combinato Vittorio? Sono a casa, fino a una certa ora poi dovrò andare fuori, lo posso. Non copio, qualche se ne farò, prima uno dice Gianni di coso, di muro, come fai? Eia. Avanti Gianni. Gianni, chi sei? Eia, ciao Vittorio, mi ascolti? Sì, ti ascolto bassino, bassino, ma poco fa c'era un altro, però non lo copio proprio, stavolta parlando ma non so dove stai modulando. L'unica ci conosciamo, ti ho anche salutato l'altro giorno di Accargeni, sono passato con lo scuola Fuschio, salutato. Già ci conosciamo Vittorio, anche il laboratorio qualche volta, mi avete messo a posto i dischi, già ci conosciamo Vittorio, prendi. Capa, sai che c'è già uno che sta chiamando un certo Gianni, non lo so. Borolpa sta chiamando, avanti Borolpa. Attenzione, Gennaro, se vai ascoltando la città di Porto Torres. Ciao Gennaro, ben ascoltato in quella di Papatango. In Europa c'è Alessio da Sassari, poi c'è Gianni Capridura in quel di Muros. E poi mi sembra che c'è qualcuno altro. Ok, ben ascoltato Gennaro in quel di Bonova. Ok, ti rimancio a Capridura, vai Gianni. se lui lo ascolto io da Bonova, lui non lo ascolta mai, mi sembra un po' strano, eh. Anche lui deve essere che sta mandicando. Giova anche a te, mi vento che vero, che bubù. Fai già, potrei mettere, sta aumentando, potrei diminuire. Sta aumentando perché da domani aumenta ancora di più, c'è maestrale. No, oh, sta proprio aumentando adesso, sta aumentando. Ho sentito la finestra, mi diceva la finestra, si mi attenta, per la pena. Ah, sì. Si deve fare proprio il casino, ogni raffica, niente altro. E beh, tu sei più in alto anche. Sì, infatti, mi avrei sopravvissato. Ma era male da quando mi tagliai i radiali, quando mi tagliai i vizi era una cosa impressionante. Il materiale batteva sui pini, i pini si piegavano e a forza di oscillazione tutti i radiali mi secretavano ogni volta. A me volta era pensavo tanto che secretavo i radiali, che dopo 6-7 mesi. Ma te crepavano il vento i radiali, a me me ne inchiappettano le cornacchie. Sì, che non ti inchiappettano. Ogni tanto gli do una sberla, capito, a quegli animali. Un giorno io se sono lì che mi pare che era. Ho visto questa passata di piccioni, c'erano stanno perfetti, sai, almeno tutti di coppa, almeno 800-900. E c'era un guato che buttava il pane. Sono tornato a vedere il mucchio, pigliavo, sparavo, e mi beccavo il 1-300, tutti in ora. E io ti credo. E come mai un gruppo di piccioni sono giocati insieme così? Sono affamati adesso, capite, piccioni. Lo sai che nel grano turco non erano più, capito? E quindi c'è gente che li butta da mangiare e mangiano lì per forza. Se non piccioni senza mangiare non ci stanno, abbiamo zona. Quello è qui vicino del resto, il parco di vanni è tutto pieno. E evidentemente gli danno da mangiare, se no sarebbe stati già da un'altra parte. E anche cosa fanno i piccioli? Potrei riempire tutto la zona in casa, quella di fare le pulci d'estate, e siamo a posto. Beh, i piccioni, certo, se non gli danno da mangiare se ne vanno a cercare altro. Ma ci vedete appunto forse le famiglie si butta per terra su qualche terrazzo. Però i piccioni sono pericolosi, fanno un sacco di rumore, ti sfocano la casa, è un disastro. Ne so qualche cosa, non abitavo in una carità, c'era tutto un casino, la cacca che faceva. Sì, ha fatto la cacca, riesco a dirti che fa, il piccione è una cosa. Poi potrei riempirsi tutta quanto pieno di cose. Di pulci, mamma mia, ogni turista, e poi da loro che fanno con la cacca, mi ci riappeggia la polvere. E la cacca fa puzza e poi, sai, la cacca è talmente acida che quando vanno cade in un automobile, in una macchina, la vernice se non riesce a toglierla subito e che gliela lascia una settimana, la chiazza della cacca ti lascia il segno di sbiadimento, proprio è acida e ti consuma, ti lascia la macchia. Capito, la lavora ti lascia, se no ti perde il coso, la protezione della vernice ti rimangia, ti rimane pacca. Sì, ti mangia proprio, a parte, come se tu ci butti una goccia ad acido, si espande, proprio grande quanto la lunghezza della cacca, ti impedisce la vernice, non è che te la fa opaca, te la mangia e va a finire praticamente al P72, al normale, quasi che non ci sia più. Mica, verità. Sandro, ci sei? Allora non c'è. Basta che non ci sono io e tu, perché si può curare avanti. Io e tu e voi siamo rimasti. Gianni Caperuso si deve essere allontanato, ma nemmeno, perché stiamo modulando, poi probabilmente è mancato. Perché lo stanno chiamando che quello di Bonova. Infatti già lo so anch'io, stavo chiamando quello di Bonova. Niente, buh. Ma quello di Bonova non mi ascoltava, non mi hanno provato neanche per vedere, ma io cerco per lui, sicuro se non ascolta me, e noi siamo proprio in un costume strano. Ehi, però come che sia ascoltato l'ottobre, se ascolta anche me, mi ascolta basso, io che mi ascoltavo Santiago 7, figurati. Sapete, non so quanto va ascoltato. Quanto avete detto Gianni lì a Bologna? Io? Sì. No, non è che arrivo così forte, non so, insomma arrivo, ma Santiago di 4, ripeto, non lo so, una roba del genere. Perché la stazione in campagna lì a Bologna, così almeno ti sentiamo, che... Sono intanto fatto bene, ragazzi, da su Baracchino 2, da... è fresco, e poi si muove da qui Baracchino lì. Già c'è una lì, questo apparecchio, almeno una quindicina d'anni, figurati. Sono tentato a mettere il finale da 54, ma mi tocca modificarlo tutto, naturalmente l'avvento, ma non ho nessuna voglia. E poi ci potrebbe anche l'alimentatore per farlo funzionare, il canale grosso almeno da 10-12 ampere. Cioè, devo cambiare i cavetti, no, lo lascio così come originale, se la trovo in quel posto, lo limite. Quando mi capitano di quei malattini della Inter che ci metti dentro, lo modifico e la uso così tanto per divertirmi.